c'è nessuno! Bello qui! Ora, ora! Chi è? Chi è? Certo, chi è? Chi è? Arrugghido sei! Cosa hai mangiato stasera? Passa arrugghido! Passa e ceci! No, sto guardando la cronaca di Sassari. Spari al centro storico, in via Turritana. Dici Max Rissa, Sassari, il centro storico chiede aiuto, si arriverà a sparare e il 7 ottobre era gli sparelli. È già 3D sta cosa fatta, sotto Senegale. Ah, 3D fa. No, c'è un che mi ha scritto, rigatito. Ah, sono sicuri i treni. Rigasi a chi si gasi, via Turritana, la gente abusiva. Casa è chiusa, non si dà una bestia se ci sono entrati. Chi si negri che vi sono, no? Te la da un bel. Sa cosa? Che la ne vendi? Oh, boh. Bimba viene scagliata a terra dal cane di famiglia. Lo sciocco della mamma alla scoperta del motivo. Cazzo, fa un Doberman, E la giubbatti secchi tutti e due, che oggi mi mangiano i vivo. Ma lo state lì da un bidone, un calzaro di magnani a di. Tutti e due mi vogliono mangiare. Io ho visto che è dato invece. Il padrone l'ha dovuto ammazzare, che ha pigliato anche un pezzino. Ehi, l'ha strangolato il padrone, l'ha suffugato. Già l'ho visto anche sul cellulare. Sul giornale lo stava leggendo Paoletta. Chi invece è un Doberman, ma mi vero, un buffo, la fotografia è un Doberman a fianco. Ma ti ricordo, capisci? E io vi la via da minori, mi. A di me mi mangiano i vivo, ma le è andata male, che l'ha impiccato tutti e due. Purtroppo, quando sono cani così che sono di gabbo, bisogna farli lavorare subito. Aspetta, la faccio a me. Mi aspetta, va a fanculo dove ci uscita. Asetta. Dove pite? Sparito, chiappi sparito. Comunque il tuo Doberman ne va di 20 se la buffa. Riesce a vedere. Non è cazzo di uscita. Quindi vedrai, nello telefono vedrai. Nel telefono è sparito, non c'è più. Nella gavata, non c'è più. Vedrai là, una neonata, una piscina, cosa farà un male. E lo Doberman a fianco a età, in accuccia, ogni abisso di gale. Purtroppo chi si... Io ti rendo a pacco su usci, dai che girate il gabbo lo pensi. Se ti sto dicendo io ce li avevo due da piccolini e ogni giorno in campagna da babbo no, a forso li scendevo il mangiare un bidone di tinta di 10 anni, pieno di mangiare, mamma ve lo cucinava, boom. Erano bravi come i cani da guardia, chi da bere abbiamo i bottuchi ci sono diventati un poco manniti. No, non ne furava ne venuta, chi prima pensava i cani, uno agattava il ferro, agattava la lianna della casa, la becca, tutto in bizzardo, niente, ne furava ne tutto, sempre. Una di la giubata duro, ma mia minera della cura cosa di luce la giubisci a bava tira dira curra in a tutto curri a giubata in tempo a tirare un cancello e non mi vogliono sbarana ed era una bava tira dira brutta. casa da casa, la città papà, così ti arrivo a tu e a pagendi, mi ringhiendi, mi ando a Giusarra a Drogancillo, a Giusarra a Drogancillo, a Giusarra. E allora va a oh, così ti arrivo, e allora io ci sono usciti con la rigata. Ma io faremo, se sto comparato con papà, arrivato giù io, ragazza della gabbia di ragazza che era una collina vicino, una montagna, e da lì passava e saltava e andava sopra il tetto, che c'era la mansarda lì. Ha sbagliato un pezzo tra fila la sera, ha fatto un gas ed era risotta la casa, ringhiendimi. Prima la ha cazzato una, appunto, quello che da rugollare, no? E la giù la gatta ha piccato, prima ha impiccato questo, da me ha cazzato l'altro, chi gli era sempre sotto, ringhiendimi. Sì, ma forse Buriani la sera, non ti conosci anni beh. Allora ti stavamo ringhiando per le cose a pacifi. Se invece le cose le tenevi un po' delle, ti giravano intorno. Tu sei Marco, sei male bisciglio quando la giubbotto romagnana nelle ciotte del suo glielo dividevo. L'acqua pulita gli ho messo, gli ho cromato un mezzo poco in campagna. Aveva fatto pure un poco d'uva che era vignetto allora, la campagna di mamma era solo vignetto. E mi ne era bene con Ruggestino, con l'uva a Trento, no, va via i signori antichi, manno. E mi ne era bene a Chiravacca, non la entrata a Trento, che era tutto l'otto, la strada. E non penso che entrate in macchina, mi hanno imbruttato tutte le rute, compri. E mi sono girato così con la cosa e l'ho tirato così, tutte e due a bava tira così, cazzo, la caccia della roba sta giù, ho tirato un cancello, sono uscito da fuori, e dicevo così, questa è stata un cancello, ringhiani me l'ha tutto ringhiato, e poi che abbiano girato di capo, quelli dopo, ma a una certa età girano di cervello. Ma mamma mia! Non me lo ricordo quanto tempo ci avevano, gli erano i due cavalli, ce li avevano da piccolini, da così erano i due palmi, una mano era, quando mi erano dati minori, ce li avevamo in casa, fino a che poi sono diventati un po' grandicelli, e allora siamo parati in campagna, quando erano già grandicelli un po', capito? Ha già compreso. Ho capito, sì, se sono uscito di volare di Gabusi, allora è fatto bene a fare gli esecchi. Ma se tu osservi in giro, non è più nessuno di quei cani. Ma chi è che ne vola di gabbo? A me il veterinario mi dice, quel tipo di cane lì, loro ingrandiscono, il cervello ingrandiscono, però la testa non ingrandisce. E la scatola cranica rimane sempre piccola, più di quel tanto non cresce, invece il cervello cresce e esce di pura di gabbo. Questo me l'ha detto il veterinario a me. E infatti vai che ti è andata a burro e mi ha detto. Senta, fatto bene allora a farmi il burro. Sì, no, oh, e infatti tu sei servizzata, no, qualcuno ce l'ha ancora. Ma qualcuno, prima l'aveva non sa niente, ora non ve la finisci mi sono di pudica. Bisogna stare attenti con quelli lì, a chi gli si dice in vola di gabbo questi lì. La frase vera, ma te c'è un giornale, signora 80enne o 79enne, agganciata dal suo cane. La musica era organizzata ed era un Rottweiler, chissù. Certo, pensa un poco. Andiamo, dove andiamo? Ma è meglio una virà, però di cazzo, non è grande grande, cucciola, mi sembrava 2 anni, cucciola un po'. Se ne fate due di me ogni capo che punta, o se no non fate i denti, ogni abbezzo di denti. Però è bravaccia, è femmina, li fratelli gli altri cani, no? Oh, la picchiavano sempre, non la pugliano i vini. Allora si la figlia di mezz'ora quel cane lì. Ma dica se brava è più tabacca. Sì, se la picchiavano non va bene così. Il cane non va picchiato, anche se no la bugia gira e da uccio. No, la picchiavano gli altri cani, i fratelli e le sorelle, sempre i cani, perché questa c'ha l'allevamento, fanno il caffè, i cani poi se li vende. Invece quello lì, gli ha detto a mia figlia, gli ha detto se lo voleva, e se l'ha preso mia figlia, non gliel'ha fatto pagare, gliel'ha regalato. A chi gli dice no, il fratello di giuretti, vengono, ma se tu gliel'ha spiegato. Sottomessa era dalla Fegana e ha fatto bene a pusciarsi il tiro. C'è la mia figlia, ma è brava, oh, si dice ferma lì, rimani chi per non si muove, e poi non gli dà cigarri, avanti, queste cose, ma è da mangiare solo quel tipo di crocchetti, solo di crocchetti gli dà, ma niente. E non riesce a usare un gare, ma quando è dentro casa vicino agli anelli, insomma niente, ma cosa vicina la banca? Infatti, bisogna dare sempre un tipo di crocchette, boh. È così, infatti io sto guardando le crocchette, anche che va, già vai a dormire, dove? Dormire, e non che la vera davanti la entrata a tre, se no davvero va freddo. Vabbè, visto che è vicia, va a 7 anni e non si ne può andare, tutta gentigata, 3 metri di lingafura, chi li ripara la lingafura c'è senza venti. Io gli accetta che andiamo e andiamo. Un cagagazzo, cazzo non ha giù, ne ho un attimo, devo comprare i bannoli a Edda, i salvietti, anche se no mi piscia mi caga in terra, chi si caga in altro così. Anche nel grande piccia no, non riesci più a contenersi. È come te le geni umano, ma stessi. Quando arriva la disedda non riesce più a contenersi. 2 bacche di bannolini, di vagini, 4 di 2 bacche, mi dici i bannolini dei neonati. Ti faccio il buco, gli si faccio la gola e vi raggancio. E poi quando si brutta, pare che ti le disegni bene, non me lo chiamano il bannolino. La fai ma con giambato, ma con 5 minuti, e la torra rossa rossa. Io che ando a chiamarli a tornare un bannolino, ma con molto che io avevo, ce l'avevo imbruttato. Poverini, quando sono così, cosa vuoi fare? La città che si andava, deve avere pazienza. Tu ne hai giurato, pare un uomo, guarda, pare. Tante drumita, mi ha detto che giurraccheccia. Purtroppo sì. Purtroppo sì. E cosa vi sono le ambulanze? Avanti, nel tutto questo gozo. Mi sono dato il fastidio. Oh, e cos'è lui? Fatene sempre così, fate che non risponde nessuno, allora si muove anche sul gozo e dice che fatene bene. Oh, mi l'ho acceso prima di attaccare questo, no, è un cane, ha detto che ti zicchiri, e ha detto l'altro, mi l'ho messo lì, e ha detto esce pongo la 23, mi dico, mezz'oretta, ma non vedo nessuno. Mi sei entrato Gian Maria, mi sei entrato, anche tu è a boh, ha già enoghi, boh, deve essere per di qualche cosa. E poi deve entrare a Bacchigio, che se ne ha saggito oggi, a che fendeva. C'è la giunta, ma vedete, è andata, i nostri vicini non ha regato, mezzo sacchetto di passato di gioca, un paio d'ore, un 2 orette. Dice, me ne sono cotturata a chi non ha più gara, a che gli era pieno, uno di Monzette, un po' di Monzette c'era. Le Monzette sì, ma le cose, le lumache ormai no, hanno buccio gli alluvi, hanno il buccio, quindi no, no, sono magre, sono. Ma è da ripone le mani grassate, ringrassa. Ma non si viene più, oh, si sono intanenti, si sono intanenti, bisogna arrivederci all'anno che viene. Registrato il break. No, se c'erano intanenti, a chi era cominciando un po' con il venticello, quando comincia che il vento si centra in sottoterra, se no che almeno non vanno a mangiare, si anda una casa, l'udotti una casa. Che c'è stato un break, avanti. Buonasera a tutti, doppio rullo a questa parte. Ciao Gianni, ben sentito, io e Tore ci sono, Tore Squallo, vai tu. Buonasera Gianni, ben sentito. Via, dai, ti intendi? Sì, io mi sono un apparecchio nuovo, là. Come sta andando il radio? È già perfetta, buona. Radio 5 proprio perfetta, buonissima. Questo è un Cobra. Buona, buona, ti sente bene. Andava bene, meglio così. Cos'è Grazia? Cos'è fatto pure, Riccardo? Non adesso, non bei di anni fa. C'avevo due Doberman in campagna. Mi bagna e allora ti piglia della gimpiccati. Perché sono cani pericolosi, hai visto nel giornale quel Rottweiler che ha agganciato quel pupo nel passeggino alla gamba, l'ha cucciato due zannati e il padrone l'ha strangolato, l'ha succugato, l'ha morto il padrone. E sul giornale di oggi, non l'hai visto? Anche su internet c'era. Dove è successo, grazie? A Sassari. Sono come c'è uno che c'è a casa, che ha già una vita, mi ha modificato proprio, e ho preso. È successo lì nella zona, la giudicità, a Sarrazecca, mi pare, quella zona di lì. Secondo me non sono cani da dirigirsi, secondo me chi si arrasta così di cani, sono da far pure a tutti, non sono cani né da passeggiare né da buttare in giro così, ma stanno scherzando, chi uno può passeggiare, chi ti ne viene uno di questi cani ti sbrana, e non che vede una greppa di questi cani, un periodo sino al mese scorso. Erano due uguali, uno nero e uno bianco marro, 4 o 5 di quei cani, poi erano in battianino che fate dice mi preparo un fusili, no, gatti, mi pare che sto circolando troppo spesso, no, perché passavano anche qua sotto casa, parliano di padrone. No, di razza, proprio quelli di razza, due erano, bianche a chiazze marrone, marroncini. Poi uno era tutto un niente, un curucapo e la recce tagliata in burro, variana, a punta. E uno era bianco, lo bianco rimaneva sempre a ultimo, ad Arezzo, una femmina era il bianco, l'altro erano tutti maschi. Tu vedi qui in mezzo alla strada, appiccichiani, brulli di macchina, si mettevano davanti alla macchina, per non farla camminare. Pure la polizia, amici, qui di fronte alle scuole, si sono piazzati davanti alla macchina, a ringhiendi, a tutto ringhiendi, per non farli camminare, no? Non se ne vale dalla macchina, se ti va del nuovo luogo. No, mia figlia mi ha detto che una di andare da lì giù a prendersi il tram da quella parte verso le cooperative e mi ha detto bene, escono da quella campagna che c'è di fronte alle cooperative marroni dove c'è il treno. Però se si fuggiano in mia di al madrone, pure un mazzano, arrivati in mazzano, la giubici, i nostri vicini, circolenni, parli di madrone, le madrone, Maria. Questo periodo è già 2 settimane che non li vedo, forse un mesetto, va. Se no ogni a mazzano e sera li vedi in nome. Ma un periodo c'era la calappia a cane, il non li trovavo. Quando li trovavano andavano lì per me, ma li portavano a fare da ritrattare. Una volta mia figlia, lui sta piangendo a casa, lo so che si è ancora di più. La scuola, e i cani che vanno, questa volta si stava pensando a noi, lo stavo appoggiando, si è preso un uomo dalla macchina, ha preso un bastone, e meno male lì che l'ha salvata, l'ha fatta sedere in macchina, il signore l'ha salvata, e noi che i gatti sono fatti qui, cioè, specialmente ci sono in greppa, sono puntigliosi, vai Tore, riprendi tu. Sì, bisogna stare attenti ai cani, bisogna stare attenti, quando sono in greppa bisogna chiamare una battuglia di vigili, farli venire subito e chiamare i vici di organile e ti ributtano. Sanno come prenderlo perché hanno la frusta con il coso per agganciarlo e tenerlo di coso proprio. Quello lì da solo non riesce a farlo, almeno in due devono essere. Non so se tu lo conosci, quel tipo che ha un occhio rispettoso, che è sempre ubriaco, che va via Pirandello, e poi va via Pirandello, non va bene. Sì, era un osso, sì, e un sacco di denunzie, ancora non l'ha ritirato Rugani. Oh, Giulia. Stavamo tornando dal mare con mia moglie, in terra, proprio sotto la strada, in terra, mi sono fermato, mi sono fatto un sono andato a aiutare, mi sono la prima. Un sacco di enti vila, la musica dottoressa, tua dottoressa, con i grembiuli, i guanti, e che si così lunghi ma figliali. E allora che tornava il raffrellato, quasi tutto il giorno, li mettevano dentro le cucce, chi ci marimari è, gli sparava le siringhe, lo drummigliano. Qua mi dove c'è la scuola, dentro il cortile della scuola, stasiani chi vi da tutti, compreso, ma danno erano sempre burati chi, e pescichiano i macchini, la gente, un casino c'è, adesso ce n'è rimasto uno, e là non che castrato. Ma anche qua, ce n'era uno, c'è stato un quarto di grosso, però era incrociato, non era più incrociato. Beh, questo cane qua, non si può capire che è un po' cane, si è abbastanza, si è abbastanza, si è abbastanza, si è abbastanza. Durante la giornata ce l'abbiamo passato, però stamattina quando mi sono avvisato alle 7:20. Devo misurare la glicemia a 7:70, ho detto cazzo 7:70, ma buffoletti. Mi ho mangiato ieri notte a cena un piatto di minestra a brodo e un pezzo di parmigiano così, senza pane né nulla. Praticamente non riesco a imparato ad andare, ma come ti posso dire? Già lo so perché fanno così, ogni tanto ti posso andare ad andare, ma... E poi non dritti me, tu li senti gli avvirai tutti, a me mi mancano quasi tutti, e tu me lo dritto lo mattezzi, mi... Guagnini, sotto chi gravalla. Però se mi metto, no me la devo mettere quella fissa, però se mi nipoti ne ho 3, 4, 5 me ne sono rimaste. E chi due, guardate, mi ha detto bisogna levare anche queste, la dice vabbè allora già ci vediamo un altro momento. Mi tocca tirarmi in nichi, Thank you. faccio a tutti lì, quello è bravo lo stesso, quel tipo lì. Ma poi adesso si stanno organizzando, ce n'è solo qualcuno anche lì, verso, non via l'Italia, no, quel rione che c'è lì, adesso mi ricordo che via è, lì ce n'è un altro stesso, ce n'è anche lì sulla circonvallazione, all'uscita di via Napoli, lì, nella circonvallazione, lì lo stesso, lì ci sono, se sono bravi, c'è anche in via Mendola. Sono tanti, grazie, ma secondo me siete in grado di poter fare gli impianti, cioè non sono tutti che fanno gli impianti, c'è sono dei che per fare gli impianti si chiamano un esterno per farlo, diciamo che sono fatti l'operazione, pagano questo esterno e glielo fanno fare a lui. Lo so, l'altro giorno sul telefonino stavo guardando, ce n'è un altro che gli sono arrivati i macchinari, proprio ti costruisce tutto quello che ci vuole con questo macchinario, lo costruisce, mette l'impronta, insomma ti la fa di chissà cosa, pari a un laser, riprenditore. Lui, venne gente. Bisogna avere dinari, se non hai dinari non fai nulla. Anzi, guarda che ce ne sono, se te lo fanno anche a pagare la poca a poco, la giurigi di buru giù, il telefonino. Per esempio, dove vanno i miei figli, lì ogni mese quando vanno gli danno un tanto che vogliono loro. E chi dice, mica gli pretende, quello che gli dai si piglia, ne assegna dove vanno i miei figli. Sì, anche questi amici mi facevano più, mi dava due testi, ma non posso parlare. Ma non parlo di vita, ma penso, non so qua, quando tu mi devo dire... Un attimino che c'è gente che sta chiamando. Chi è che vuole entrare? Attenzione, chi è che vuole entrare? Sopramodulata, voi non entra, e già ma non entra. Andate, riprendi, grazie. Eia, magari a te non ti sente, cioè, avanti se mi cuffi, se vorrebbe entrare, me la me. Cagliuto dei bassi, vabbè. Riprendi già, però avvicinate il microfono, ma non sei cucato. Cucato, gioco, a chi è che senti? A chi fai? Andenne, diminuendo il suono della voce. Adesso l'ho sollevato, è entrato d'ora e mi ha mangiato un mezzo a berra da ricci. Esagerato, chi sei, grazie a cazzo, non faccio la voce di questi pochi, no. Sore, che microfono stai usando? L'M più 5. Io ce l'ho nuovo in scatola, l'M più 5. Nuovo, proprio mai usato, l'ho comprato e mi ha lasciato in scatola perché dove lo dovevo mettere non ci sta bene al mondo. Vedi, quello è brutto, quando si compra e poi si mette da parte non va bene, bisogna usarlo, anche se no da buio no, non c'è più guscio. Ma se troppo metto mi metto perché il mio mobile è fatto a rimpianto, mi ha fatto trovo di chiamellato, non c'è lo spazio, stanno tutti che hanno già fatto tempo, però qua quello è il brutto di questi microfoni che sono beati e vabbè, io già ce l'ho di spazio qua a Puglia. Aspetta che c'è qualcuno che vuole entrare. Chi è che vuole entrare? Buongiorno. Senta mia Alessio, buonasera, no buongiorno. Buonasera, giudizi. domanda, grazie a te e Alessio. Ciao Antonello, poco fa tu volevi entrare. Ti rilancio a Gianni che vado in ufficio 2 minuti. Vai. No, non ero io quello che volevo entrare, era un altro. Tipo, vabbè, grazie a Alessio, non mi intendi, no, rientro te. Se non hai scusa ti avete mandato a quel paese, certo. Stavo ascoltando Gianni, è proprio cazzo, un morto sembra che stia parlando. Con tutti i microfoni amplificati che c'ha, mettetelo a letto già che è meglio. Mi siete sopramodulati. Da. Ogni tanto li faccio girare, capito? Questo qui è normale, l'apparecchio è un omologato, col microfono suo, e purtroppo se non ci metti un amplificato non va. E tu mettiti l'amplificato, vedrai che fa. Sembra che stiamo parlando con un mozzo. E adesso lo metto l'amplificato. Antone! Dimmi tutto, sono qua a sogno. Ma tu vuoi l'anzura? Se ce ne entrambi. Ti ho detto di no, non ero io, era un altro che si stava incazzando. Evidentemente si è rapetto, se ne è andato. A peggio maedo. E lui l'ha giuranciato, ma se ne è voluto andare. E vabbè, entrerà un altro momento. Senz'altro, entrerà magari qualche altro momento. Si indagherà. Signor Bacchisio, attenzione signor Bacchisio, bello me, ma tu eri poco fa cercando di entrare, dove sei a casa? Io. Senta così, allora, è rimasto alla Seasu, aumentato va? Perché ero commutato sull'altro là, se sono due, sì, è commutato sull'altro. Buonasera signor Bacchisio. Ui, andiamo. Andiamo bene? Sì, buonasera anche agli altri. Non ci messi a Gianni, Antonello è quello che era in ufficio. L'ufficiale. Avanti ancora a Gianni. Ehi, ha registrato. Ciao Bacchisio, ho sentito, buonasera anche a te. Dai Antonello, va meglio così. Alessio, ya sei tu. Ciao Bacchisio, Luttoni, avanti. Va bene, no, va bene. Già mi ha capito. San Giorgio San Pratamora. Buonasera a tutti, ciao Antonino, ciao a tu, ciao Gianni, ciao anche a Graziano Bacchisio, avanti Bacchisio, buonasera. Ok, buonasera dottor Marino, beato che disintegra. Tu bandito a fare la campagna se stai diventando. Avanti ancora. È stato un grande salone di sera, grande salone di sera, di notte, tutto puntato fatto, quasi tutto bruciato. Buonasera signor Marino, certo, ben entrato, andiamo bene, andiamo. Oh Gianni, avammi bari più forti, avai la voce duia. Saluto Marino, ma così ci da darli, secondo me è un po' strappato, o è forte come microfono, non so cosa sia, lo sento un po', non lo sento chiaro di radio, dai. Guarda questo passaggio Gianni, ma va a fare il suffogato. Non so voi, io lo sento così. Affogato, l'ultimo passaggio era proprio con la mela in bocca. Marino, si chiarisci. Un altro mi stanno chiamando, non lo so da chi. Schiarisci ancora, sei ancora... No, sembri sempre di qualcosa in bocca mangiando. Ma fatti la vera, che non ti sevi. Antone! Sì, bisogna che Marino ci metta un microfono amplificato in quell'apparecchio. Perché il microfono male faceva lo stesso rispetto che faceva a me. Che trattava appena appena. Se te lo avvicini alla bocca, sei fregato. Devi rimanere almeno 20-30 centimetri per uscire bene. Antone, ma cosa hai combinato? È il tuo compleanno oggi o no? Ti ho messo gli auguri e hai scritto che non è il tuo compleanno su Facebook. Come mai? Cosa hai sbagliato? La notte al compleanno? Alessia era sbagliata, io sono nato 9-11-63. ti avevo visto che tutti quanti, anche ti arrivava un messaggio, hai detto inganta. Aspetta, mi tocca i coglioni, non sai che non ci arrivo al 9. via, sempre a Oxford sei tu, no? Va bene, tu riprendi e poi fai girare per Graziano, vai. Un attimino, sono al telefono. Sono entrato, altro riprendo io già, scusa, guarda il passaggio adesso. No, sempre così, non è chiara la radio, è sciatto, via. Sì, sciatto. Anche adesso, penso. Adesso no, prova a fare un passaggio lungo. Guarda questo passaggio, uno, due, tre, prova, avanti. Adesso va bene. Un po', se puoi alzarla appena appena, ma va bene adesso, è chiaro. Va bene così, dai. Sì, tu come hai parlato lontano. Così è perfetta. Sì, va chi? Ehi, adesso più chiara. Come fai la fogata? Vediamo se Graziano è ritornato dall'ufficio. Graziano. C'è senso Marino all'ufficio. E adesso mi sale, dai. Dai, avanti a te. Oh, un attimino. Bacchi, sta andando a prendere la signora, ci sentiamo dopo. Ok, Antonello, avanti. Sì, qua sono. Già ti ascolto un po' meglio adesso. Poco fa, io un po' ti ho strappato senza. Ovviamente c'è un bel microfono amplificato lì. Con un MB+4, un MB+5. O se non sa verta, va bene lo stesso. Quando mettiamo la ricchi ce lo prendiamo, Antonello. E beh Gianni, sei a lavoro, sei entrato? Vabbè, io riprendo io, vi saluto, dai. Faccio un attimo di questa greca e poi esco a portare il cane, dai, ci sentiamo ragazzi. Caca! Ciao Graziano, ciao a tutti gli altri amici, dai, buona serata e buon continuo a queste ore. Ciao Gianni. Ok, ciao Gianni, buon questa greca, a sentirci alle prossime. Graziano, avanti. Ciao Patrizio, ben sentito, chi è entrato? Anche Giulio. Non so, Marino c'è. Buonasera Graziano, ben ascoltato anche per te. Marino vai. Ok, ciao Gianni, ben sentito questa greca. Vabbè Graziano, sto a posto? Ehi, ehi, ciao Marino, ben sentito anche a te. Tutto a posto, tutto a posto, quello che è a posto. Se devo dire, mi devo dire, da mo, dopo lo stagio anche sentito, ecco, domani ci passo, fra una cosa e l'altra, e sono mezzo incasinato e non ho avuto tempo anche di passarci. Bene, poi sei spostato Antonello e nel mondo di sogno, Antonello, avanti. Aspetta, per l'intervento subito. Benissimo, benissimo. Stavo dicendo da chi ieri sera, dopo le 10 ho fatto un grande falò, ma bello grande, tutto bruciato, tutto quanto, mi è rimasta solo una montagnetta all'altra parte e basta, avanti. Beato te, hai fatto il falò allora ieri, oggi, va benissimo. Antonella, ricordati per domenica, non si mi dimentichi di dirtelo poi, ci stai ascoltando. Invece caricare due apparati, uno per te e uno per la freccia. Adesso sì. Allora Graziano, che mi racconti? Cosa ti racconto? C'è fra Mattezzigosa, visite, controlli, e niente, in casa, preci, in giro, una di chi, una di chi da, e cosa vuoi fare? E così, e cosa vuoi che ti racconti? Poco da raccontare, cioè. Oh, io, ma chi c'è che è sempre in chantè, marchigio, ristorante, pizzeria, a mari, con le signorine. Sicuro, con le signorine, sì, senz'altro. No, a mare no, a mare, hai capito Graziano? Invece di mare, la ritorni da R, e ci metti la L, male. Figlia di Maria, chi ci si fa faccio alle Huawei, ai Dufris, mi ha mandato la fotografia in gonnellina, tutto fiorito, pure in capo di fiori va via. Che cosa bella, oh. Okay. Ma chi sta andando lo stesso segnale di Graziano, numero 15. Capito. No, è questo quello che non usciva, ma che si è il filo spaccato. Ho sono da Torpino ed è un treno. Un treno in questa radio là. Forse ho avuto paura, dice, questo lo mette a parte. Ma va benissimo, sia come segnale e commemorazione, è fatto triste. Va bene. Grazie a noi, c'è una bella modulazione, bella forte. Mi sta staccando anche, non è che mi sta staccando. Ehi, adesso hanno mi piace l'ubino, chi su a l'ubino è in due spezzoni. Se può cambiarlo ancora. E che l'altro ce l'ho tutto intero e poi diverso il filo. È migliore di questo. Qua ci ho messo l'aggiunzione, c'è il bussolotto e l'altro spessore del filo. Però ti arrivo più forte lì. Ma come segnale già sei forte, là, già va bene, sia come radio come segnale, là. E lo so che prende un po' di segnale quando è giunto. Un po' di segnale si perde sempre. Bene, qua sta leggermente piovendo, avanti Bacchini, da te. Anche qua, piano piano, sempre facendo, rompendo i piedi, là. Sempre facendo sta. E se stia arrivando nuovo autunno, inverno. Tempo suo Bacchini, tempo suo, è la ora. A me pensa che piova la notte e non di giorno, capito? Deve piovere di notte. Non molto, è leggero. E di giorno fare del tempo, avanti, almeno tu sul lavoro. Avanti, grazie. Beh, quello sì. Sino che a travagliare la becca ha finito di travagliare e poi se ne razzurrata, specialmente chi non è assicurato. Chi è assicurato in cantiere sono puri, già hanno la caccia edile e dunque si salvano. Ma è chi non c'è assicurazione c'è il lavoro all'aperto, è fuggito, anche non puoi fare nulla. Il brutto è quello. Venne un bel niente che travaglia niente così. Purtroppo è così. Non l'hai visto nell'orientale sarda verso Tertenia, qua tutta quella zona lì, Erzo, Tertenia. Ogni bomba leva, tutta allagata Tertenia. Io l'ho visto, sì, da noi difende. Queste sono tutte zone a rischio, avanti, va chi? Sì, lì stanno bene gli agricoltori, gli ha fatto via tutto adesso, poveracci. Una vita lavorando per fare qualcosa, passa un tempo, vita. 10 minuti tutto cancellato. Pavarini, che è Garibaga, nessuno ribaga. Oh, è Garibaga, nessuno ribaga, ha rimesso tutto, per carità, qua. Cazzo, lo tempo, già rubarmi così già, sì, da Tertenia io ci ho fatto anche il militare, lì una postazione che c'è lì, vabbè è un'isoletta lì in mezzo al mare, chissà ogni onda che viene anche se isoletta, per carità. La terra grazia, la terra si sta girando, già è colpa nostra molte cose già è colpa nostra, ma già ha detto che non davvero si rende conto di noi. Avanti da chi? Antonello è entrato, Antonello si è bagnato lo solito, grazia. Allora, questo ha fatto la fatica, grazie a un impatto molto violento, con una bella bionda. Chi usa sa forse un giuccetto con una boppetta non si è più caccato e non si è più visto, La suciatura ha fatto così, E allora, e tu va, li dubbi, va, i cannetti, cioè, si piazza lì, li dubbi, no, la cannetta, e come sta succiando, sta a destra e a sinistra. Guarda Edu, se può permettere, lui è un mozzo, avanti da chi? Ehi, grazie, lui si può permettere di ciucciare, capito? È giovane e ancora può ciucciare. Ma chi? Se no non piova domenica. Non ho capito, non sono malissimo. Speriamo che non faccia acqua domenica. Che ci fa? Mi 6.32 sottomodulati. Avanti, ma chi lo sto dicendo? Ho detto, se bagnato ci prendiamo lo stesso. Eh sì, vabbè, vi coprite un ombrello. E per i pellegrini, capito? Io posso andare prima a portare che trovo, mi soffilo dentro. E non me lo posso andare, perché domenica? La processione c'è, grazie a... Ma che processione? È la festa della Madonna della Notte Dolce. Ah, me ne ero pure dimenticato. E è un anno che non mi sono più andata in San Guilca. Ma non è più come tanti anni fa, no. Oh, manca a fianco. A te grazie, che mancava le... che c'era studio pieno. Tutte nel viale, te lo ricordo, facevano il palco lì dove la chiesetta. Allora sì, era finita, e beh davvero, non c'era neanche la chiesa grande, io sto parlando a quel periodo. E poi per scendere al Marsanna c'era l'Olivetto, dovevi passare in mezzo all'Olivetto, te lo ricordi? C'era il viaggio, c'era il mezzo fra le case basse, dove ogni tanto hanno fatto anche in circo una volta. Sì, sì, altri tempi. Già se lo ricordo anche Bacchisi, avanti. Tu devi pensare, in quella casa bassa ci ho abitato, è nato mio fratello lì. Quelle case basse che c'erano di fronte alla chiesetta, grazie. C'ho la foto ancora di quella casa lì. Lì è nato mio fratello. Quei tempi lì era bella davvero la festa, è come la festa a Santa Nadulia, prima era bella, avevano banda un cane, adesso è morta quella festa, non ci va più nessuno, la fanno e però sono andato io e ho due grappi, per carità, tanti anni fa già ce ne veniva di gente, macchina frari nel viottolo potevi passare delle macchine che c'era. Se vai adesso è come che non c'è nulla, sono morendo pure tutti questi vecchi. E prima era una festa, ma adesso no, perché non c'è posto Santa Natalia di posteggiare nella strada, e non vuole fare mucche di strada a piedi ogni volta. Ma adesso tutto per la chiesa lì hanno bello pulito tutto, le macchine molti le mettevano anche lì, e se ti sto dicendo che le macchine prima arrivavano fino a campagna, tu facevi tutta la salita, tutto il rettilineo fino a campagna dove sono io, arrivavano le macchine a parcheggiare anche più giù e scendevano a piedi. Prima, adesso non più. Prima sì. Ma sai cos'è, grazie? A fare queste feste ci vogliono soldi, e soldi non ne ricavano, dunque non fanno più nulla. Lo so, prima passavano e ognuno dava il suo contributo. Avanti passi, ma qui a Nadabri, io che parlo a te, se non passa. Io tutti gli anni quando passano glieli do sempre. 5 euro, 10 euro, anche gli ho dato qualche volta. Passava, cosa passava, va? L'ubrate il mare, quello robustello con i baffi che abitava lì vicino a Cavalieri, al tabacchino, Mattianino mi sembra si chiama, morto lui. Mattianino si chiama, no, non è morto, non è una figa, ma abita vicino a Cantanoria, abita con i tappadori Mattianino, non è il direttore, diciamo, a fianco al tabacchino, non è una figa, si chiama, grazie. Gli ultimi due anni, due o tre anni fa è venuto lui insieme a Mario Fala e si lascia andare le imbriagheggi e allora altri tempi, grazie, altri tempi. Ma questa bella la stanno facendo per esempio io a San Giovanni, ha visto dei componenti che stanno portando, quest'anno hanno fatto una strage quest'anno, avanti Battista. Se non c'è in Salvenda, sabato ci sono in Salvenda e domenica non so cosa ci sia, non mi sono neanche informato. Si è formato in Salvenda perché me l'hanno detto Franco Fino, me l'ha detto, e Salvatore, i due membri della festa. Sì, ma dei giambani a tanto come battisti, c'è l'azienda, sì, l'azienda apporta la gente, ma alla fine la gente si stufa, bisogna cambiare. Hai detto San Giovanni, non mi più, già con gli altri una vega di contesti da fuori, ma può fare quest'anno ce n'è la mia parte. Ogni cosa fa una festa, la festa della cosa, cos'è? La mucca, basta, via. Come a me, con la bestia, e c'era il mondo, non so quanti i bambini chiusi, non so quanti i bambini hanno venduto la vita della vita. Avanti, grazie. Un paio di anni fa già ci sono andato a 47 anni, ma non ce n'era gente, un bel fumo. Erano travagliati tutti le bancarelli. E quest'anno io non ci sono andato, però è andata mia figlia con mia moglie, sono andati loro, con mio genero. E mentre che c'era lo stesso un sacco di gente. E hanno venduto pure i bancarelli. E c'erano quattro complessi di fuori, c'erano dei contenenti. Uno, quattro. Erano cinque giorni, ogni giorno c'erano le cose. Un complesso diverso, figati. Avanti, ma che? Anche qui le bancarelle non ce ne vengono più perché non fanno niente, no, incasso zero, proprio deve essere siano terra terra. Ma questa si potrebbe anche fare bella, se tutti avevano contribuito alle spese, dico non dare 100 euro, né 200 euro, né 50 euro, bastano 5 euro a persona, a famiglia, sai che questa c'era uscita la veloce, il mondo lo portavi. E vabbè, ma non va chi, ma ho visto chi c'è adesso, la sta, vabbè, ci hanno parlato da seccare, pure chi è stato magna magna, a me è stata la mia completa, i buti, i parenti, zitti, siamo andati che sono quest'anno, siamo parlati, ci sono, ci sono tutti gli altri scisi, ci sono. Non c'è più nessuno, sono un 3 o 4 solo, capito? Infatti li ho visti, stanno facendo la questura in due. Dice, ma non danno niente, dice, fai un palazzo, dice, te lo porti giù, dice, 10-15 euro. E 10-15 euro qui, 10-15 euro là, fai mucchio. Perché bisogna fare uscire da un paio di mesi prima, ma per andarmi in giro, no, c'è più nessuno. Ormai c'è solo la famiglia Feno, al completo, fratelli e punti, zie e sorelle, Io dico, l'anno che ho fatto io la festa, sono andato lì al Santa Maria di Pisa, il grattacielo, e ci sono 14 piani con il grattacielo lì. 3.000 lire in tutto il palazzo ho fatto. E guardi, altri tempi. Ma devo girare anche qualche zona di campagna, capito? In zona di campagna qualcosa si fa, non molto, ma qualcosa si fa. Avanti, grazie. Ma la gente non è più come se prima. Prima qualche cosa era da Gianni Giucci. Ma va, un bel niente, ma con la Gianna d'Afri. Non te la aprono proprio apposta per non dartene, a chi magari ti vedini i darbacconi che si assegni vivi e porta poi quando arrivi il cione non apre, a chi a me un bel divorzino che non l'ha giusto mi dice ma lo vedi su da fianco e non apre, sarà uscita, non lo so, invece non è che è uscita, non sta prendendo manco gli anni, fanno dattini, l'hai compreso, non è più come una volta. Tutto cambiato, avanti da chi? Al grattacielo c'era un CB, no? Un CB, la madre non dava mai un centesimo, mi diceva sempre, no, a noi non si interessa la festa, poi arrivava il giorno della festa e era in prima fila tutta la famiglia. A me non mi interessa, eri sono i primi ad andare, oppure se non sei sono i primi a bocca piena, avanti grazie. Infatti poi a me non ci sono neanche più andata qui. L'ultimo volta che mi ha messo che c'è andato, sono successo a farratori, casini, ha detto, se li arrivi, basta, ma che mi cosa una pula di verrà faccia, ma va a far qui. E non ci sono più andata anche per quello. Oh, mattina, a ricandare il romate, se capo più andata, la cabaccata la matta sicuro. Non ci sono più andato, tu, per carità. Stai invecchiando, grazie. Stai invecchiando. Guarda Bacchisio, Bacchisio è un giovanotto, vero Bacchisio? Sicuro già. 24 anni adesso devo compiere. 24 anni così? Sì, 24, il 26 aprile. Più giovane di me, sì. Va bene, gli anni passano, guai se non passano, avanti. Vediamo se Tore è entrato, Tore si è perso, avanti grazie. E poi avevo tutti i problemi che faccio, poi avevo andato in fatto la pesca e non che vera venna di sabato e domenica. Mi sono cascato, ho abbaiato un poco, da peggio sono arrabbiato, la gente che mi lava la testa, la gente è così là che non ne voglia le macchie, intendere tutto questo abbrutto che vida. Ha passato a vedere. E dove l'hanno fatto? In piazza, grazie. In piazza, da poco l'hanno fatta. L'ultima mi pare vera, che canta le canzoni di Giovannino Giorgio, il genero, o cari. Lui è Giuseppe. Sì, da un amico mio gli ha preso passaggio con i buccioni per un'offerta. Cazzo la librettese uridina, 100 euro. Allora ne ho offerta e salgo, se la dici tu non ne riduita, beh dicevo sì. Ma così com'è si è avverato, neanche 5 lire, offerta, e così. Boh, scesi al cielo, avanti da chi? Un'offerta, però un'offerta si parte da 100 euro. E chi ti vede l'offerta? No che gli ha preso 100 euro, dico la vicina la tiene manco incassati, ti do 100 euro, buoni 100 euro giù, e poi ti dai il domacco. Ma chi è? Qualcuno c'è la bancarella? Gli ha chiesto. Uno che vende lì con la bancarella che conosco io, mi ha detto Edo brutto. Ma io non gli ho dato, non è che 5 lire a lui proprio, nulla gli ha dato, capito? La dici tu devi pigliare l'ombrellone con il pigliare a capo, un buccione che fa via in mano, che altro mi presenti, senti io, ma tu sei male, ma l'ho tennato, non l'anima occupati la sera, senti io, e chi? E la poi lo fa a te, a mangiarti di tu a voi, no, ma avanti da chi? No, qui alla veloce le bancarelle andavano spontaneamente i soldi, diciamo così, non ti davano tanto, quelli di 50 euro, quando erano in lire 50.000 lire te le davano, adesso in euro te le davano 50, 40, senza chiedere nulla, come passi, se mi devo dare la cosa, le devo fare a vista, e te le danno senza chiedere. Ma si fa così, ma chi? Come non fa offerta, non mi dai la cifra, non mi dai 100 euro, è da che parte? Ma tu perché non ti devono neanche decidere? Una è un'offerta, non l'hanno mandato, avanti grazie. Beh, se è un'offerta, è un'offerta, dimmi di chi ci qui pongo il buccione, noi che mi ribebbero il cindino. La dici, ma di Marco, se tu avanti il cappotaggio alla prossima volta, non li dai nulla, li dai da piace, chi vi dai gli andati, li dici. Stiamo un po' con furbo con lui, una lezione. Avanti, la chi? E poi 100 euro per uno, secondo quanto abbiamo fatto la legge sola abbiamo fatto un bel idea. Ma è giusto, io sono lì da tutta la sera per guadagnare un centesimo e tu ne vuoi 100, ma attendendo e fatti in paglietta. Corri alla larga, vai, vai. Sono rientrato E chi se ne frega? Pure a me. Buonasera signor Toro, avanti. Sì, cazzo, ne volete un po' di na. Non ce n'ho, no, andate l'altro da vicino. Anche tu non so da già puoi dare, sì. Almeno 100 euro come se si sto. Magari buro subito. Ok, ma chi per l'emozione con la vice di attore domani? Sì, dove? Domenica non ci viene a mangiare né bene. Capito? Questa volta lo mangio tutto io. Impegno. Purtroppo l'impegno, poi l'impegno bisogna, non bisogna mancare. qualche persona, nulla, avanti, grazie. Ehi, adesso chiudo, là, e mi devo fare anche l'insulina subito. Sì. E la già la radio dall'altra la banca. Va bene, ciao autore, ce la presentiamo, a domani ci la giocano e non aggiungo i fallacendo. Ok, ciao Marchisio, ciao Marino, ciao a Antonello, quando entra, se entra, se no. Oh, è salutato. Ciao anche agli ascoltatori, ciao, riprendi tu, Tore. Sì, ciao, grazie, stammi bene. Se va tutto domani, ok. Andare, ripigliati la macchina. Io sono Piero Graziano, buonasera Graziano, buon QRT, buona insulina, buona cena, buon tutto. E saluto anche la signora. Benissimo, avanti Marì. Benissimo, ciao, grazie, ben sentito, mi ha fatto piacere per tanto, là. Ok, domani se concide saluto la signora, avanti il Torricino, che ci racconti di bello? E cosa vuoi che ti racconti? Che offendeva? Mi ha detto, un cellino mi ha detto, io ti ho visto in bicicletta e ti ho tolto anche il cellino, no? Sì, è vero, a me la mangiava, mi ha fatto un giro in bicicletta, e manno puro. Chiaro da te, ha visto, ma chi se può permettere, avanti, e noi zappando. Io adesso domani scendo in bicicletta in campagna, così ne porto un cestino d'acqua. Sì, non posso altro, se qua devo domani, lo vedi. Qua sta fitta a fitta se per vendere, dopo. E qua fino a qui non lo sempre facendo, non si è calmato per niente. Quello che bagna di scimmie. Ma dove sei, su o giù, Bacchi? Ho capito, Marì. Dove sei, giù o su? Su sei. Oh, su sono, su, su. Ma è possibile infilarsi il cavo, farlo scendere giù questo cavo qua? No, giù c'è l'antennino, se no bisogna mettere il barilotto, mettere allungare 30 metri di cavo, perché qua ci sono 30 metri di cavo buttate sul terrazzo. Devo mettere, lo taglio, mai l'ho tagliato. No, per anche per segnare. Ma laggiù c'è il calduccio, capito? Su invece c'è un po' di fresco. Avanti, to. Tore. Ehi, no, era per dirmi, sono un fiume di capoterra, ma l'ha fatto tutto un rampetto di strada, fatta da Buburu. Sette. Daniele defende in Sanzona, oia, per carità, avanti, Bacchi. Ehi, l'ho bombardato. Ha capito Tore la radio che ho riparato che funziona, trovate il difetto cosa era. E io ammattendomi. Ieri c'era parlato per più di un'ora. Più di un'ora c'era, anche di più. E non ha fatto nessun ascolto. Stasera adesso è acceso un bel po' e sta funzionando. Prima mentre muovi il microfono si trovava. Però ma scusa ma chi va? Io non sono io. Oh, sono, si sente la votazione, sì, si capisce, però come che siete dentro un barattolo, se mi sbaglio. Però se stiamo parlando troppo vicino, adesso. E adesso va bene, adesso va benissimo, avanti to. Sì, vabbè, già si comprende, già si capisce bene, quindi l'ha aggiustato Bacchi? Sì, hanno fatto la soldatura, c'era un filo staccato, tocca che non tocca, capito? Ho passato dove il filo, perché l'ho aperto, ho messo la cosa, ma questo filo qui, ieri sera per la sera funzionava, prima invece parlavi mezz'ora, un quarto d'ora e trovavi giusto. Oh, e allora, era dentro il microfono. Sì, al filo della calza, la calza che collega il microfono, la capsula, quello lì era risaldato. Ah, era già da dove allora? Vabbè, meglio così. Ah, ma così è appuntava. Ho salvato la fredda, era, capito? L'uovo che ti muove, festa che ti pesto, si è staccato. E cosa faceva? A momenti toccava, a momenti non toccava. Infatti, già stai uscendo. E cosa facevi? Lui e poi funzionava. No, ieri, cosa fai la campagna? Ho divulgato l'avvitatore, cresce, va, l'apro e via. E quello là non ci sei riuscito a metterlo a posto con il microfono là, no, quello nuovo. Con nuovo in questa radio non ci va, no, non tira. E invece nell'altro internet, in quello da 40 canali che c'ho giù, lì sono riuscito a farlo funzionare. Però lì c'è già il microfono, lo devo mettere qua, qua non c'è sistema, o esce di pernacchia o non esce nulla. Bisogna trovare i fili giusti per metterlo, perché nel coso ce ne vanno due accoppiati, nero con la calza. Nero con la calza, dentro il microfono. No, all'attacco delle... attaccato dell'apparato, lì vanno nero con la calza. Domani ci provo. Però non lo metto solo per le funzioni, domani quando salgo la campagna ci provo, o forse piove e non ci va neanche. Ha messo pioggia per domani, ha messo. Non bevo un po' d'acqua. Sì, Marino ce l'abbiglia domani a Manzano, un bello bobo, domani a Manzano bizzo. E la c'ho in serata, poi se piove devo fare. Rimango dentro la notte e su il bagno, ha capito. Però non mi piace rimanere fermo. Cade così che l'ora non passa mai, capito? Invece se il movimento ti fa la passeggiata e ti passa l'ora, invece poi sul moto non passa più. Mi sto lontanando un attimino per un bicchiere d'acqua, avanti sto. Sì, piano mi venirei, vami. Piano che non si ghiacciata. Marino, ha visto l'ultimo passaggio del monitor di radio e di segnale, a cosa te ne sei detto? Dico se burro si è abbassata. Cosa è toccato Marino? Va bene, è andata, va bene. E se non siamo mettendo tanto meno, Antonio va bene, ancora a ritornare. Infatti. Ho visto il coso dell'apparato, del segnato. C'è stato spedito ieri, è stato spedito. C'è il segnale che mi dà. E adesso è quasi vicino al coso di visualizzazione di arrivo. Dove lo spedivano? Dove era? Non lo so da dove l'hanno spedito. Qui dalla tracciatura dove... Io l'avevo trovato a Bari, in due giorni a Bari. Oggi era il giorno 6, il giorno 8 se avevi l'apparato. Allora me lo dovevi dire che cosa era. Mi ha fatto anche, ma su eBay era. Su eBay bisogna stare attenti. Che a me un bel di voce no. Su eBay la cosa non mi arrivi. Ma c'è scritto, se in caso è, caso, ti davano i soldi indietro. Non l'ha giù fatto, di là non ha giù visto il lupo, ha giù chiamato tre voci che i soldi non sono arrivati, allora mi hanno mandato tramite coso Amazon, ha fatto il coso tramite Amazon e me l'hanno mandato Eddie. Anche ladri sono loro. Sì, uno come te, ecco, infatti su i B, mi dico che non vi bisogno nulla io, a meno che non è qualche cosa di ferro coso, o chiavi e altra cosa. A proposito, me sono dimenticato Bacchini, guarda che al coso, al Lido, c'è il coso come quello che avevo preso io con la lente. Con la lente là. Sì, io sono andato lunedì e ce n'erano un bel di capoli vinirani. Adesso non lo so se c'è ancora, se ci sono ancora. Domani mattina io ci devo scendere per guardare queste cintole a vedere come sono. E domani ci vado anch'io, l'altro un salto me lo faccio, vedo un po' se c'è qualcosa di buono. C'è anche il soldatore digitale, c'è. Come, tipo come questo che ho io, però là è digitale tutto, si vede quando c'è aumentare, diminuire. Io ce l'ho, è a pistola, pistola, e addirittura per salvare lo stagno te lo manda lui, cioè di cosa ho? Una levetta, le spingi e ti manda lo stagno davanti per salvare. Ma con i cosa pistola, un benivucchi, chi c'è il di gruppo? Invece quello lì, diminuisci e ti fa la saldatura più lenta. E questo lo diminuisci, è regolato, da quanto parte, che lo fa. È un giocattolino bellissimo, con una punta sottile. Allora, parte da zero arriva fino a 300. Allora gli andavi. Io mi avevo preso, mi sono preso i due cavalletti, cioè i cavalletti me ne sono preso due. E allora? Questo qui, ripeto, con questa pistola, c'è le rocchettine per lo stagno dietro, poi c'è questa levetta, pompi e ti manda lo stagno sulla punta del salvatore. Usi lo stagno che ti serve. L'ho compreso. E andavi allora. Io lunedì, quando sono sceso, ho preso due cavalletti che si piegano, si chiudono. E quelli in legno? No, in ferro sono. Ma in ferro? No, in legno sempre li ho visti io. Ma buoni allora. Il ferro per usare per la macchina. Perché ci metto una tavola sopra e fai un piano di lavoro. No, sono piccoli questi cavalletti a tre piedi, che sono pieghevoli, sono in ferro, sono per mettere, io li ho usati per il carrello, li ho usati lunedì. Ma chi si usa tanto per la macchina? Sì, tre piedi sono piccoli, si sollevano di busto di mezzo metro. Già sono comodi, avanti, va qui. Servono sempre. Guardare la macchina, fare, anche per il sotto. Quando cambio la gomma, se c'è qualcosa da guardare sotto, sono lì più importante, ci metti il cavalletto, sei sicuro. Ma è come vedi a pompa o sole, oppure devi solo dare a mano? A mano sono, apri le tre zampe, sollevi con un perno, ci sono i buchi, io sollevi con un perno e sono cavalletti di quelli che usa in officina. Ah, è comodo, sì. Avanti da qui. Ho capito, no, è utile averti. Ma tutto non si può avere perché se a comprare tutto quello che serve ci vuole un capannone. Vabbè, ci sono due gavadetti, 14,90 €. Per non dire 15 € mi so. Cos'è? Chi ti compra il tuo? Una satra con due gavadetti dentro. E chi ce l'ha? Già va bene, dai. Avanti, batti. Io la trovo molto, se un paio di mesi fa. Ho preso la saldatrice di Inventer, poi cosa ho comprato? Una moletta, del taglio a legno, una sega circolare piccolina. Non so cosa preoccupare, siete appoggenti. Non mi ricordo neanche io cosa ho comprato. Perché la moletta ha preso? E quando la mola, quanto costava la mola? 28 e qualcosa l'ho pagata. Non è una mola, una circolare per tagliare il coso. Legno, qua ci sono anche il disco per tagliare il ferro. Ma cos'è? Mola oppure sega circolare? Sega circolare. Monta i dischi della moletta piccolina. Ah, ho capito, sì, avanti tu. Andavo così, avevo un pochetto di ferri in casa. Ma così da pensare a che cosa ti racconti? Esatto, mi vengono a chiedere a uno all'altro, si si rompe e dopo mi tocca la cupa da dire a nulla, avanti da chi? Poi di chiavi ne ho comprato l'altro giorno due scatoloni verso l'altra. Le mini chiavi a cricchetto, poi sono i cacciaviti professionali, una scatola di cacciaviti ho comprato. sono le centrali. 12 o 13. All'ingrosso, cosa vuoi fare? La bancarella, ma chi? Tra poco forse la bancarella, no, perché ci avete in campagna mi servivano. In campagna e anche qua. Quelli che avevano erano un po' vecchi, sono tutto andati. Poi li mettiamo a riposo e siamo gli altri. Da sera, no? Perché si consumano le punte e così via, ma si so. Infatti. Se ti diceva che cosa, già ogni adatto già si acciappano in filo. Vedrai, tu non so di marca, ma so buoni. Sì, vabbè, intanto di marca, perché lui non si fa in casa, va troppo bene, caldo si fa, c'è di lampi, avanti. Sì, siamo per la parte Sile, sono tedeschi. Infatti io mi avevo preso un lavoro, avevo preso quello con la lente e coso, con le pinzette per tenerti il circuito anche. Ha giurito che la lente è un bel buona. Io dico, proprio buona ne hanno. Tu devi pensare, ho preso un orologio tanti anni fa, mi pare che aveva dato 25 o 30 euro. La cassa si è tutta rovinata, il movimento funziona perfettamente bene. E allora già ci ha pronato un riduto che la cassa è buona, però Giambi è buoni quei viscioli buoni. Buttato in campagna a parte, lo guardo, è sempre perfetto, l'orario non sgarra un secondo. E allora meglio così, andava così, andava, se la riprenda signora Marino. Io ero a giocare, la stasera partita ascoltavo su quella frequenza di radio, c'era un po' di traffico, e poi ho sentito anche tuo cugino, c'era un'oretta, c'era stasera tuo cugino, avanti. Mio cugino è sentito stasera? E un'oretta buona c'era, e poi se ne arrivano 9:10, 9:15 arrivano qua, e lui e tutta la persona che c'era. Ma sui 40 metri ero? Esatto. Allora sì. Allora sì, non ho acceso io stasera, non nulla, per niente. Andrà bene bene, io ne approfitto del micro perché mi devo passare in correttivo, è arrivata l'ora X, è arrivata l'ora della medicina. Bene, signori, vi saluto, vi auguro ancora buon QSO, ciao Marino, buona serata, sorta in casa, io con le patatine anche per Tore, sorta la signora Tore e ci sentiamo. Ma chi si ascolta Pinolino poi va in QRD. Ciao a tutti e due, buona serata ancora, riprendi Marino. Benissimo, ma che? Ok, buona serata per te, saluto in casa, se coincide ci vediamo domani, dai, adesso vediamo cosa, se mi dico prima, bene, avanti Tore. Ci sentiamo un bacchì, ci sentiamo domani. A posto va a domani a mangiare, non mi? Vediamo a fare l'acqua, sì, andate. Ci sentiamo, da. Ok, Mari, io ne approfitto anche io a Serra che mi sociamenti. Benissimo, to. Ok, ti saluto, ci vediamo domani, se concilia, saluto anche in casa. Bene, saluto anche tutti gli ascoltatori, anch'io faccio quello di là. Ciao, a domani, ciao. Ok, ciao Mari.